24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Il faccia a faccia della storia di oggi a Mix 24 è con Michele Sindona. L'ho intervistato nel 1983 nel carcere di Otisville negli Stati Uniti, dove era rinchiuso. Michele Sindona, siciliano, avvocato. Anni fa l'Economist, il prestigioso giornale inglese, lo ha definito il più grande finanziere europeo e il Times l'italiano di maggior successo dopo Mussolini. È stato l'uomo dell'anno nel 73, premiato dall'ex ambasciatore americano in Italia John Volpe e proclamato dall'onorevole Giulio Andreotti benefattore della lira. Nel 74, al culmine della carriera, controllava 146 società in 11 paesi del mondo. Condannato a 25 anni di prigione dal Tribunale di New York per il fallimento della Franklin National Bank, è recluso nel penitenziario di Otisville, a 1.5 ore da New York. È un imputato con 65 capi d'accusa e ha subito la più severa condanna che un colletto bianco abbia mai avuto nella storia degli Stati Uniti. Il suo nome è forse legato al più gigantesco e losco intreccio del secolo. Lui ha risposto alle nostre domande dall'interno del penitenziario di Otisville. Avvocato, lei per tanto tempo non ha parlato, adesso invece improvvisamente dà interviste a tutti. Che cosa è cambiato? Sino a qualche mese fa io mi ero fidato un po' della psicologia degli avvocati, che mi dicevano sempre non parlare, non parlare. Ora mi sono stancato. Siccome io non ho niente da nascondere, voglio che la gente sappia quello che è accaduto. Ecco, lei però in passato ha fatto di tutto, anche delle cose incredibili, per evitare di essere giudicato in Italia. Di che cosa aveva paura? Io ho cercato di avere prima il processo in America ed infatti recentemente il Tribunale di Palermo ha dovuto darmi ragione e non mi ha considerato latitante. Ha detto che non possono giudicarmi in Italia perché in contumacia, perché io non sono latitante, ecco, cosa che ho sempre sostenuto per tanti anni. Ecco, ma lei perché adesso è disposto a venire in Italia? Io sono disposto a venire in Italia perché è incominciata il ricatto, la minaccia, la persecuzione contro la mia famiglia. Ecco, cosa le faceva credere che i 25 anni di galera che ha avuto negli Stati Uniti fossero meglio di un giudizio in Italia prima? Solo questa paura per la famiglia? Io pensavo di non dover essere condannato in America. Ecco, ma lei 25 anni e 25 giorni. Ma lei si è sentito tradito dall'America in questa condanna? Io mi sono sentito tradito da magistrati e da rappresentanti del nostro pubblico ministero americano, che sono stati scorretti, disonesti e forse anche corrotti. Ma non era mai stato corrotti da chi? Evidentemente da chi aveva interesse a farmi condannare. E chi era? Il solito gruppo italiano. Avvocato Sindona, lei anni fa disse: ho sempre avuto fiducia nella forza e nella capacità degli Stati Uniti. Adesso forse allora un po' meno, insomma. Assolutamente, e mi sono accorto che anche nel sistema giudiziario americano purtroppo ci sono delle gravi lacune. E nessuno l'aveva messo in guardia? Alcuni parlavano di questo, ma io non avevo mai creduto, perché trovandomi dalla parte del giusto e del diritto pensavo di poterlo ottenere. Lei ha detto anche di essere stato condannato grazie a dei documenti falsi che sono stati mandati dal magistrato milanese Guido Viola ai giudici statunitensi. No, anche soltanto, veda, i documenti possono essere falsi o mancanti di una parte, perché quando per rogatoria sono stati chiesti i documenti a Guido Viola, Guido Viola ha detto: io ve li mando escluso il 10% dei documenti. Lei capisce che in materia bancaria o economica sarebbe bastato l'uno per mille per nascondere la fonte dei soldi, che era una mia fonte, non quella delle banche. Ecco, lei in Italia è imputato di bancarotta fraudolenta, di simulazione, di rapimento, di associazione mafiosa. Quale di queste imputazioni teme di più? Nessuna, sono una più ridicola dell'altra. Quindi è pronto a difendersi? Non nel modo più assoluto. Lei nega i suoi rapporti con la mafia. Non può negare però di aver avuto rapporti con Gambino e con il suo clan, come ha anche confermato suo genero Giansandro Magnoni. Che tipo di rapporti erano allora? Io ho avuto rapporti con Gambino e i miei rapporti con Gambino e non con la mafia sono stati dichiarati da me, non trovati da nessuno. Sono stato io a comunicarli e le dico, Gambino è stato presentato a me proprio da qualcuno che rappresentava la radio televisione italiana, da Mario Salinelli. Quando ha saputo che io lottavo per imporre la democrazia in Italia e per evitare l'avanzata delle sinistre, lui mi disse: perché non facciamo un giornale insieme per poter ottenere il voto agli italiani?

Bontalloro, tu col tuo carisma puoi ottenere. E chi erano? Io non posso fare dei nomi, gli dico solo che Miceli che mi faceva da trade union, tra me e questi. Comunque non erano mafia, ma erano dei rispettabilissimi professionisti, tra cui alcuni appartenenti alla massoneria. Le posso dire questo. Io ho inviato una lettera aperta al dottor Viola e a questa lettera era allegata una lettera, scrittami, da un alto esponente del Pentagono, cioè chi rappresentava il Pentagono nelle Nazioni Unite per la conferenza di Mari, cioè l'ammiraglio Morris, il quale alla fine della lettera mi diceva, dopo questo, ti dico che io ho parlato con Turner, ho parlato col capo della NATO, che allora, guarda caso, era il capo della NATO e dopo è diventato segretario di Stato, e mi diceva... Egg. E noi ti ringraziamo non solo a nome degli Stati Uniti, ma anche a nome di tutto l'West per quello che tu hai fatto, ecco, e che stai facendo. Avvocato Sinton, allora, lei difensore dell'West, che cosa c'è, secondo lei, all'inizio della fine della carriera del finanziere Sindona? Ma l'inizio della fine, che io sto lottando strenuamente, sa che ho scritto al Presidente degli Stati Uniti, sa che il Presidente degli Stati Uniti mi ha risposto, mi ha fatto rispondere all'avvocato della Casa Bianca, dicendo che aveva passato la mia pratica all'ufficio perdono per il perdono, e io gli ho fatto dire dal mio avvocato che non avevo chiesto perdono, che non ho chiesto perdono a nessuno. Gli avevo chiesto soltanto che si rifaccia il processo perché non ho commesso reati. Ecco, ma secondo lei sono nazionali o internazionali le cause? Soltanto nazionali, hanno influenzato la parte internazionale. Quindi posso dire questo, Cuccia ha inviato il signor Rondelli, suo schiavetto negro, come tutti lo chiamano, attraverso l'Europa a dire state attenti quando è successo il problema qui alla Franklin, che Sindona avrà problemi e manderà i soldi delle banche italiane alla Franklin, ecco, cosa lei... tecnicamente impossibile, e ha spaventato tutti. Perché si sono spaventati? Si sono spaventati perché la comunità finanziaria, lei sa, in materia finanziaria quando qualcuno ha problemi si spaventa. Lei vede, io dissi sempre, se la Chase Manhattan Bank o la First National City facessero sapere o si sapesse in giro che queste banche hanno dei problemi, tutti vanno a ridere. Ecco, ma lei dice che la causa di questa sua rovina sta nel radicalismo chic di sinistra. Ma se lei pensa che gli amministratori delegati delle più grosse banche italiane sono nominati da Cuccia, se la Malfa e Cuccia decidevano in Italia chi doveva essere l'amministratore delegato della Commerciale, del Credito Italiano, del Banco di Roma, e quando il Banco di Roma si è opposto li hanno distrutti, ecco, ma... questo le dice chiaramente che hanno la forza, perché hanno la forza finanziaria italiana. Cuccia, l'ex presidente della Mediobanca, suo grande nemico, che colpe ha secondo lei? Tutti hanno paura di Cuccia perché è un ricattatore abituale, tutti mi hanno detto. Un ricattatore di chi? Un ricattatore di tutti, perché lui fa fare, e l'ho scritto anche ai magistrati, quando non sono intervenuti, ho dato le documentazioni dei bilanci falsi preparati da Cuccia. Lui si è difeso dicendo io l'ho preparati, ma li hanno firmati i signori Torchiani, i signori Cevis, i signori Corsi, e quindi io non sono punibile. Gli ho fatto presente che aveva commesso il reato di truffa e di aggiotaggio documentandolo nella Montecatini. I magistrati hanno paura di procedere perché lui si vanta di essere il padrone del Tribunale di Milano. Avvocato Sindona, parlando di lobby internazionali che si fronteggiano nel mondo della finanza, come descriverebbe lei gli schieramenti? Guarda, gli schieramenti oggi nella finanza internazionale sono teoricamente due, i cosiddetti liberals, che sono poi quelli che si atteggiano a teste d'uovo e che sono state sempre guidate principalmente da Galbraith, e gli altri che sono un po' i monetaristi, quelli della supply side, che fanno capo a Milton Friedman. Sì, no, ma parlavo come comunità di banchieri. E questi hanno sempre influenzato praticamente i banchieri, i quali quando vogliono sostenere le loro tesi o di intervento dello Stato e si riferiscono a Galbraith, quando invece vogliono parlare di libertà di mercato e si riferiscono. Ecco, ma che esistano contrasti di logge, allora lei lo nega? Cioè sono solo contrasti di linee culturali? Sono di linee ideologiche, non di logge, sono di linee ideologiche. Però c'è molta gente che poi, evidentemente in malafede, nasconde sotto le ideologie la lotta per centri di potere. Dopo la viabilità, continua il faccia a faccia con l'avvocato Michele Sindona. Mix 24, i faccia a faccia della storia. Continua l'intervista con l'avvocato Michele Sindona, intervista realizzata nel carcere di Otisville, negli Stati Uniti. Avvocato Sindona, secondo lei non esiste una lobby finanziaria occidentale filocomunista? No, esiste perché è gente che cerca di prepararsi la strada per quando il comunismo eventualmente dovesse diventare il padrone del mondo. Ecco, lei ha più volte dichiarato che l'anticomunismo era un'ossessione della sua vita. Non l'ho mai dichiarato, non lo sono visceralmente, lo sono per ragionamento e lo sono per Politica economica, io ho sempre detto, io non sono un animale politico, credo di essere un animale economico. Ecco, però... In tal senso ritengo che il comunismo è dannoso perché crea povertà, miseria e reati. Ecco, però essere anticomunista da una parte, appoggiarsi in qualche modo, avere rapporti con la mafia, quindi con i trafficanti della droga, non le sembra una contraddizione con il difendere i valori dell'Occidente? Non capisco, perché io non ho mai avuto alcun rapporto con la mafia, non solo, ma a questo punto le dico una cosa, io sono il creatore della IADAF, International Anti-Drug Foundation, che ha avuto l'approvazione di Washington, io ero chairman, quindi Washington ha scrutinized, cioè ha guardato quello che ero io prima di concedermelo. Lei pensa che avendo creato questo, e l'ho creato con Madame Najjar, che è la moglie dell'ex console di Israele in Italia e poi console di Israele alle Nazioni Unite. Avvocato. Oggi lei è rimasta perché mi sono dimesso quando sono stato dentro. Lei pensa che io possa avere un rapporto dall'altra parte? Avvocato, anche Licio Gelli, suo amico e capo della loggia P2, faceva dell'anticomunismo una ragione di vita, mi pare. È su questa base che vi siete incontrati o su base d'affari? Io non ho mai trattato un affare con Gelli, mai, neanche di una lira. Io mi sono incontrato con Gelli perché Gelli un giorno è venuto a trovarmi e dirmi, io ti devo ringraziare, io la devo ringraziare in quel momento, perché lei ha difeso un nostro fratello. Anche Calvi, il defunto presidente del Banco Ambrosiano, era ossessionato da moventi politici nel suo agire finanziario o no? Non credo, Calvi era un cattolico, un anticomunista, tanto che in questa funzione lui creò il centro finanziario sudamericano. Ecco, a proposito di questo, perché lei, Gelli e Calvi avete avuto nel Sud America una specie di palestra di questo comunismo d'attacco? Io mi sono accorto che qui gli americani non avevano capito il pericolo cubano, ho cercato al solito di creare qualcosa che potesse dare alla libera economia sudamericana una linfa vitale, avrebbe potuto automaticamente ostacolare l'avanzata economica. Attraverso anche il traffico d'armi nel quale sembra che Calvi sia coinvolto? Guardi, sino a quando io sono stato vicino a Calvi, posso escludere nel modo più assoluto. Se però poi si dice che delle società finanziate da lui abbiano fornito altre a Sud America, questo, scusi, ma è completamente ridicolo dal punto di vista ideologico, perché allora io dovrei dire che il signor Rockefeller, quando fa finanziare dalla Chase Manhattan la McDonald's o fa finanziare le società che producono armi, lui ha finanziato gli ex società o altro. La banca finanzia la società, se ed in quanto le società possono restituire i soldi, sono sane. Che poi le società facciano armi per Israele o per gli arabi o per i comunisti. Secondo lei è un problema non del banchiere, assolutamente. Ecco, quindi irrilevante. Lui non ha trafficato armi. Avvocato Sindona, lei nega di essere stato un massone, però certamente sono massoni quelli che lo hanno aiutato spesse volte, sono massoni i governanti sudamericani che, rispetto ai quali voi avete avuto degli interventi, lei, Gelli e Calvi, sono massoni sicuramente Gelli e Calvi che l'hanno sostenuta anche materialmente nei momenti di difficoltà. Sono massoni coloro i quali hanno tentato di farlo passare come un perseguitato politico di fronte alle autorità americane. Ecco, tutto una pura coincidenza? In un certo senso non è una coincidenza. Io ho fatto una grossa cortesia a un massone senza sapere che era un massone. Gelli mi disse, noi siamo completamente a tua disposizione e ti consideriamo un fratello. Quando mi inviò la tessera, tra l'altro non firmata da lui, ecco perché poi mi hanno detto loggia segreta, la mia era firmata dal maestro generale, gli disse, vi ringrazio, ma io non partecipo perché la mia ideologia non consente di partecipare a nessuna società. Ecco, lei crede al suicidio di Calvi? Assolutamente. Assolutamente no? No, assolutamente no. Ecco, no. Perché? Perché conosco abbastanza Calvi. Ecco, ma chi l'ha ucciso secondo lei? Per me chi l'ha ucciso è le stesse persone che lui mi disse nel 1979 che molto probabilmente l'avrebbero ucciso. E chi era? E mi disse, da quando io sono entrato contro il tuo parere, e io avevo dato parere contrario, nella stampa sudamericana e ho dimostrato che io combattevo le sinistre, la mia vita è in pericolo. E chi l'avrebbe ucciso allora? Quelli stessi che lui ha detto, glielo ho detto. Lui mi ha detto che era in pericolo. Ma ha fatto dei nomi? Attaccando. No, assolutamente. Ecco, perché secondo lei la giustizia inglese si è affrettato a dichiarare il suicidio di Calvi? È normale questo, negli inglesi ha avuto un certo grado di ipocrisia, non vuole problemi in famiglia. In famiglia cioè? In loggia? Non ho in Inghilterra, non credo. La moglie di Calvi lancia pesanti accuse in direzione del Vaticano. Secondo lei sono accuse attendibili? 90% non attendibili, escludono nel modo più assoluto che quello che ha detto sia vero. Ecco, è vero come ha dichiarato lei che Calvi e Marcinkus facevano insieme esportazione di valuta? No, Calvi e Marcinkus insieme, innanzitutto tecnicamente non ha significato. L'Istituto Opere e Religioni

Loro sono in condizione di istruzione. Ecco, ma senta, avvocato, io le faccio una domanda un po' ingenua forse. Prego. Ma cattolici e massoni, in affari c'è differenza? Quando gli affari sono puliti non c'è differenza con nessuno. Tanto se differenza evidentemente ci fosse, e qualche volta forse sarebbe opportuno che ci sia, non capisco perché gli americani abbiano permesso che la Russia ottenesse 80 miliardi di dollari di credito per comprare le armi che serviranno un giorno a distruggere l'America. Ecco, avvocato Sindona, lei un giorno ha detto ai suoi figli: quando muoio non guardate ai soldi che lascio, ma fate il conto degli amici. Spero che la lista sarà lunga. Avvocato, la lista com'è? Malgrado tutto, posso ancora contare su parecchi amici. Ecco, ma sono di più in America o in Italia i suoi amici? Divisi equamente. Mi faccia l'elenco dei primi tre in America e i primi tre in Italia. Io non odio i miei amici. Se li odiassi darei i nomi e immediatamente il dottor Guido Viola spiccherebbe un mandato di cattura. Senta, avvocato, un'ultimissima domanda. Ma oltre a questi amici sconosciuti, a suoi figli, resterà ancora qualche spicciolo? Nessuno, ma i miei figli non hanno bisogno, perché per fortuna ho dato loro una buona educazione, hanno imparato a lavorare, sono dei grossi lavoratori e possono guadagnare da sé.